Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Si spaccano i sindacati degli assistenti di volo, piloti ancora in dubbio, scatta l'ora X e il futuro di Alitalia è appeso a un filo. La rivolta pacifica di Castel Volturno, società civile in piazza per dire no alla camorra e tra poco XL il presidente del Palermo Calcio che ha detto no alla mafia. I PM di Milano eccepiscono l'incostituzionalità per il lodo Alfano e chiedono di andare avanti nel processo contro Berlusconi per i diritti Mediaset. Una brusca frenata per il piano Bush, nessun accordo dal tavolo bipartisan per salvare l'economia americana. Due terroristi sul volo Colonia Amsterdam della KLM sono stati arrestati. A 6 anni dalla strage di San Giuliano, con un terremoto, 7 scuole su 10 non si sa se resterebbero in piedi, lo dice il rapporto di Cittadinanza Attiva. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque sono le 13, le 13 e un minuto, è l'ora X. Scadeva a questo punto il termine per tutte le sigle sindacali, piloti compresi, per pronunciarsi sull'offerta CAI per quanto riguarda l'Italia. Cosa è successo? È successo che questa mattina hanno già firmato gli assistenti di volo dell'ANPAC, almeno uno dei sindacati che li rappresenta, ma non tutti hanno firmato e c'è chi sembra non disposto a firmare. Allora andiamo subito a Palazzo Chigi da Vincenzo Miglietta per capire cosa sta succedendo. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Come è successo spesso in questa lunga trattativa su Alitalia, gli ultimatum dati sono stati poi puntualmente disattesi. Dovrebbe essere così anche oggi con i colloqui che potrebbero proseguire nel pomeriggio. Piccoli passi in avanti si registrano qui a Palazzo Chigi verso l'accordo da parte delle sigle autonome che ancora non hanno sottoscritto il piano Fenice. In mattinata è arrivato il sì dell'ANPAV, sindacato che rappresenta gran parte degli assistenti di volo. Ascoltiamo allora Massimo Muccioli. A fronte di garanzie e di elementi di certezza che ci possono permettere di almeno tranquillizzare le persone che saranno o che rientreranno nel gruppo degli esuberi e altrettanto a fronte di risposte riguardante la garanzia dei livelli retributivi, che era uno dei punti sui quali ci eravamo bloccati come espressione di consenso definitivo. La nostra associazione ha sciolto il nodo e questa mattina, poco fa, in delegazione siamo andati a porre la firma sull'accordo conclusivo. Hanno preso tempo invece, dopo l'incontro con il governo, Avia ed SDL, che rappresentano anche il personale di terra. Ancora non ci sono le condizioni per firmare, abbiamo fornito delle integrazioni al testo, hanno spiegato i rappresentanti di queste due sigle. Sentiamo il leader dell'SDL, Fabrizio Tomaselli. Allo stato dei fatti stiamo ancora in trattativa, abbiamo finito una tornata adesso e abbiamo consegnato una posizione a Colaninno, Sabelli e al governo e aspettiamo un'ulteriore convocazione più tardi per verificare le risposte dell'azienda più che del governo. Quindi non è un no il vostro al momento? Fino a quando si tratta non ci sono né i sì né i no. Quando si finisce di trattare allora vedremo quali saranno le conclusioni. Quando tornerete ad incontrarvi? Penso nelle prossime ore. Vincenzo Miglietta, la sensazione dunque è che la trattativa stia di nuovo slittando, come dicevi in apertura, ma non saltando. No, sicuramente, ecco, la sensazione che abbiamo qui a Palazzo Chigi è proprio che entrambe le parti coinvolte, quindi CAI ed autonomi, vogliano prendersi qualche ora in più di tempo per affrontare i nodi più delicati. Ricordo che qui a Palazzo Chigi sono a colloquio con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Letta, i piloti, quest'ultimo in particolare, punterebbero ad avere precise garanzie sull'ingresso di un partner straniero e su questo sembra che nelle ultime ore ci sia un'accelerazione da parte di Lufthansa. Siamo qui a Palazzo Chigi, vedremo cosa succede nelle prossime ore. E naturalmente chiederci la linea in qualunque momento ci saranno novità. Le notizie ovviamente rimbalzano a Fiumicino. Andrea Viali, lì cosa si respira? In mezzo a tutti i dipendenti, Andrea. Sì, poi innanzitutto dobbiamo dire che a differenza di altre occasioni, ieri tanto per citarne l'ultima, qui a Fiumicino non sono state organizzate per ora nuove assemblee, nonostante questa nuova, ennesima direi, scadenza fissata per la trattativa che è in corso a Palazzo Chigi. Ieri, dicevo, l'ultima assemblea, quella dei sindacati del fronte del no, gli iscritti hanno ribadito il loro no all'accordo con la CAI, tra l'altro. Io in questo momento sono davanti al centro equipaggi, nella zona dove si imbarcano gli equipaggi in partenza. Piloti e assistenti di volo sono al lavoro regolarmente, sembra una normale giornata di lavoro se non fosse per i cartelli e gli striscioni appesi sulle pareti del centro equipaggi. Devo dire che molti piloti e hostess hanno preferito entrare, ci sono naturalmente anche i giornalisti oltre agli striscioni, molti piloti hanno preferito entrare e andare al lavoro senza rilasciare dichiarazioni. Devo anche dire che tutti quelli che invece hanno deciso di fermarsi a scambiare due chiacchiere... Ma c'è più aria di no o aria di sì, Andrea? Scusami? C'è più aria di no o aria di sì a questo accordo? Assolutamente aria di no, ma soprattutto aria di amarezza, al di là di quello che poi possa essere il risultato di questa trattativa a Palazzo Chigi. Amarezza direi sostanzialmente. Comunque, anche un accordo non sembra che possa essere vissuto come un successo per l'azienda, né tantomeno per i lavoratori, almeno parlando con, ripeto, i pochi piloti e le poche che ci sono a Fiumicino, hanno deciso di scambiare qualche chiacchiera con noi stamattina. Comunque saremo a vedere poi. E anche tu naturalmente chiedici la linea se succederà qualcosa anche a Fiumicino. Grazie per il momento anche Andrea Viali. Non manca la politica in tutta questa storia. E anche la satira sui giornali. Per esempio sul Giornale, sul ruolo di Veltroni in questa vicenda, il leader del Partito Democratico che si è detto avrebbe avuto un ruolo di primo piano, la vignetta vede un aereo di Alitalia con un Veltroni che viene scalciato fuori dall'aereo e il titolo è Il clandestino. Cattivello invece con Berlusconi, LK sulla Repubblica, due personaggi di LK. Il premier è sparito in una beauty farm dell'Umbria per un sentito massaggio di solidarietà con gli esuberi. E giornata storica oggi per l'Italia, ammesso che lo sia davvero, ma quello che arriva da Palazzo Chigi è che forse la giornata magari sarà quella di domani, la giornata storica. Una giornata storica che avviene anche a Caserta in qualche modo, Anna. A Castel Volturno, per la precisione, dove è la giornata della legalità. Una risposta forte e concreta dopo la strage di immigrati contro la Camorra, e per noi c'è Laura Viggiano. Presenza dello Stato, giustizia efficace, capacità investigativa, certezza delle pene sono solo alcune delle cose da fare su cui, secondo la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, c'è chiarezza. Insomma, la battaglia contro l'illegalità parte da Caserta per continuare con diverse tappe che vedranno unite Confindustria e i sindacati lungo tutto il Sud. E la Presidente Marcegaglia dice anche che questa sarà una delle priorità per gli industriali. Ascoltiamo. Siamo qui a testimoniare che iniziamo proprio da un'area che ha gravi problemi, però abbiamo anche visto che c'è la volontà, ci sembra il fatto di aver visto migliaia di persone per strada, molti imprenditori qui, sta a significare che c'è un'apertura, c'è probabilmente una volontà di cambiare. Faremo tutto il possibile, questo accordo, anche questa azione comune con CGIL e CISL UIL, penso possa essere altrettanto importante. E intanto la giornata per la legalità organizzata a Caserta si tinge di nero per l'incidente che si è verificato questa mattina a Villa Literno. Nel corso di un inseguimento, una pattuglia della polizia è finita fuori strada e un poliziotto ha perso la vita, mentre un altro è gravemente ferito. Da Caserta è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Laura Viggiano naturalmente, e anche la cronaca oggi ci porta una notizia. È infatti riuscito a sfuggire alla cattura uno dei presunti esecutori della strage di immigrati avvenuta a Castel Volturno. Si tratta di Oreste Spagnolo, nel corso di un'operazione eseguita quest'oggi, nella quale invece sono scattate le manette per altre persone, operazione condotta naturalmente dalla squadra mobile di Caserta. Festival della legalità anche a Palermo, con un titolo che dice molto: anti-racket è vera svolta. Sentiamo. Di mafia si può anche ridere, parola del procuratore nazionale. Piero Grasso ha aperto il Festival della Legalità di Palermo con un assunto: la mafia è una cosa tremendamente seria, ma come tutti i fenomeni umani, oltre ai risvolti tragici, presenta lati comici ed esilaranti. E così Cosa Nostra è diventato un argomento di cui parlare anche attraverso spigolature, punti di vista, aneddotica varia, per fare un'antimafia alternativa, insomma, letta dagli intellettuali e dalle autorità, anche in modo dissacrante costante e quotidiano, senza la patina enfatica che ricopre gli eroi, ma con le testimonianze genuine che emergono dalla vita di tutti i giorni, sdrammatizzando la retorica ufficiale e pomposa, l'antimafia che sta fuori dai luoghi comuni e che ogni giorno fa i conti con il pianto e anche con l'ilarità. Come per il primo incontro tra Michele Greco, il papa della mafia, e Giovanni Falcone, lo racconta proprio Piero Grasso. Il super boss accolse così il magistrato dottore: finalmente ci incontriamo. E rapido nella risposta, Falcone, in un siciliano strettissimo, rimarcò: veramente, finora è mancato per lei. Alessia Bivona, GR24 Il Sole, 24 ore, Palermo. E a Palermo torneremo tra poco con la nostra intervista oggi dedicata al Palermo Calcio, che ha detto no ai boss. Altro argomento forte di giornata: la Procura di Milano contro il lodo Alfano. Al processo per presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi Mediaset, in cui è imputato tra gli altri anche il premier Silvio Berlusconi, il pubblico ministero ha infatti sollevato l'eccezione per la costituzionalità della legge. Spetta ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Milano ora decidere se sospendere o meno il procedimento, giudici che sono proprio ora in Camera di Consiglio. Il lodo Alfano è incostituzionale. Alla ripresa del processo per i diritti televisivi Mediaset, il PM milanese Fabio De Pasquale si alza dal suo scranno e punta il dito contro la norma entrata in vigore il 26 luglio, che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato. Lede il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, elenca tra l'altro il rappresentante dell'accusa, nel chiedere alla Corte l'invio degli atti alla Consulta e nel frattempo la sospensione del processo per il più celebre degli imputati, Silvio Berlusconi, e non per gli altri 11. Il PM contesta il fatto che si blocchino i processi al di là della fase in cui si trovino e cita i nodi rimasti irrisolti dopo la parziale bocciatura della Corte Costituzionale nel 2004 di una legge analoga. Allora a Milano si celebrava il processo SME e il lodo si chiamava Schifani Maccanico. 4 anni dopo il lodo porta il nome Alfano, il processo è per i diritti televisivi Mediaset, ma l'imputato premier è lo stesso, Silvio Berlusconi. Come uguale è la contestazione della procura alla norma e identico il battibecco con la difesa. L'eccezione è infondata e non rilevante, replica Nicolò Ghedini, avvocato del premier, che ricorda come il capo dello Stato nel promulgare la legge abbia precisato di aver avuto come riferimento la sentenza della Consulta, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il lodo Schifani, ma per la procura quelle indicazioni sarebbero state disattese dal lodo Alfano. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Bloccati questa mattina due presunti terroristi a bordo di un aereo della compagnia KLM all'aeroporto di Colonia, diretto ad Amsterdam. I due, un somalo di 23 anni e un tedesco di origine somala di 24, potrebbero essere implicati nella preparazione di un attacco di matrice islamica. Nelle loro abitazioni sono state trovate lettere di addio in cui esprimevano il desiderio di morire per la jihad, la guerra santa. Televisione e territorio, come cambia questo rapporto in Italia? Ieri vi abbiamo parlato di un forte investimento televisivo al nord, con l'informazione e anche l'intrattenimento locale, i legnanesi avevamo citato, per il futuro delle reti private. Oggi invece andiamo a sentire che cosa succede al sud. Qui la notizia è un progetto firmato Rai. Un progetto per valorizzare il Sud, ma non solo dal punto di vista artistico. Parliamo della nuova soap opera serale di Rai 3, Agrodolce, girata a Termini Imerese. Quello era. Siamo noi la possibilità. Tu sei una donna troppo fortunata, Peppa, credimi. Soddisfatto il responsabile editoriale che l'ha voluta fortemente, il direttore di Rai Educational, Giovanni Minoli. Soddisfattissimo di questo progetto perché è un progetto molto innovativo sia dal punto di vista dei contenuti ma che soprattutto dal punto di vista del business model che abbiamo messo in campo per realizzarlo. Abbiamo potuto sfruttare i fondi strutturali europei per lo sviluppo industriale delle aree depresse, facendo equiparare l'industria seriale della fiction all'industria classica, tradizionale, chimica, meccanica, tessile. E questo è un grande passo avanti perché fa riconoscere dignità di impresa, di industria a un settore che nel mondo lo è. Quindi dal punto di vista del modello industriale messo in piedi c'è una grande soddisfazione, è una grande originalità, diciamo così, unicità. È la prima volta in Italia e che capita in Sicilia è un bel esempio. Gli investimenti ammontano a quasi 25 milioni di euro, il 50% della RAI, che spende in questo modo la metà di quello che costa un'altra serie come Un posto al sole, e metà dai fondi strutturali europei, con un ottimo riflesso sull'indotto. Dal punto di vista dell'indotto, l'intorno tra Porticello e Termini Imerese sono già 400-500 persone direttamente o indirettamente che sono coinvolte nel lavoro, quindi mi sembra una cosa davvero, una zona così depressa che vede a rischio continuamente l'iniziativa industriale principale che è quella della Fiat, mi sembra una cosa interessante. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 18 minuti, le notizie di oggi extra large. All'Italia ancora incertezza, arriva la firma all'accordo da parte dell'ANPAV, uno dei sindacati degli assistenti di volo, ma resta il no per ora degli autonomi, nessun segnale positivo nemmeno dai piloti riuniti a Palazzo Chigi. Il lodo Alfano incostituzionale, il pubblico ministero del processo per le presunte irregolarità nella compravendita dei diritti TV da parte di Mediaset, che vede imputato anche Silvio Berlusconi, solleva la questione di costituzionalità per la legge sulle immunità alle alte cariche dello Stato. Negli Stati Uniti non passa per ora il piano Bush per il salvataggio delle istituzioni finanziarie. Manca l'accordo tra democratici e repubblicani. Intanto le autorità bancarie ordinano la chiusura di Washington Mutual. Le attività passano a JP Morgan. La rivolta pacifica di Castelvolturno, società civile in piazza per dire no alla camorra. E tra poco Excel, il presidente del Palermo Calcio, che ha detto no alla mafia. Due giorni fa è stato arrestato l'avvocato dei capi mafia siciliani Lo Piccolo, Marcello Trapani. Nell'ordinanza dei giudici e nell'inchiesta svolta dalla procura antimafia è emerso, tra le altre cose naturalmente, che la mafia tentava di infiltrarsi e condizionare la gestione proprio del Palermo Calcio, intimidazione ai dirigenti e altre cose. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo Calcio, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, in queste ordinanze, in questi documenti si parla di molte cose, dal tentativo di controllare la campagna acquisti fino alle intimidazioni che avrebbero subito alcuni vostri dirigenti. Quali erano le pressioni che avete ricevuto, quelle di cui lei almeno è a conoscenza, Zamparini? Io in 5-7 anni che sono a Palermo ho intimidazioni e pressioni uguali a zero. L'unica cosa è stata un anno e mezzo fa, non mi ricordo se l'ultimo Natale o dell'altro anno, il mio direttore sportivo aveva ricevuto a casa, mi sembra, la testa di un capretto e naturalmente era rimasto, lo avevo mandato subito alla polizia per la denuncia, era rimasto sconvolto dal fatto. E poi è emerso che c'erano già a gennaio questi due personaggi che già non conoscevamo e che sono stati allontanati subito dal Palermo, ma però sono personaggi che esistono in tutte le società di calcio, cioè quello vicino alle giovanili ci sono sempre un po' dei personaggi che approfittano delle procure dei ragazzi, dei giocatori giovani emergenti, che fanno un piccolo traffico dei ragazzi che si liberano, ma nessuno pensava mai che fossero collegati in un certo modo. Zamparini, è vero, prima domanda, che i boss cercavano di pilotare, secondo lei, questa compravendita? E poi perché? È una bufala pazzesca. Ma però Trapani era anche un procuratore, no, di calciatori, eppure un'inchiesta qualche interesse c'è. Ce l'aveva, ma l'inchiesta forse c'è, ma Trapani è il procuratore di alcuni giocatori, sì. Trapani come mestiere, da quello che so io non lo conosco, fa il procuratore di giovani giocatori. In Italia ci saranno almeno 200-300 avvocati che fanno il procuratore dei giocatori. Ma allora solo per interessi suoi economici, ci sta dicendo, null'altro? Ma io penso di sì, perché io come Palermo Calcio non ho mai ricevuto nessuna pressione, io come imprenditore tantomeno nessuna pressione, perché me ne sarei andato da Palermo il giorno dopo denunciandolo, me ne sarei andato via. Senta, un'altra cosa curiosa che è emersa e che naturalmente ha fatto notizia è che, a quanto si apprende, i boss della mafia, insomma, locale, volevano avere il posto garantito in tribuna, godersi la partita nei posti migliori. Ora naturalmente non è detto che lei questa cosa la conoscesse, però con la legge nuova bisogna che sia nome, cognome, indirizzo, numero di telefono di chi viene in qualsiasi porta dello stadio. Io ricordo che circa, ma tutti gli anni lo facevo anche a Venezia, sapendo che nel sud poi i biglietti omaggio sono un'abitudine, io mi sono fatto dare l'anno scorso l'elenco dei biglietti e ho scoperto che c'erano 3 biglietti per ogni dipendente, che c'erano 10 biglietti per il consiglio d'amministrazione, che c'erano ogni giocatore 2 o 3 biglietti secondo se aveva i familiari o no, che c'erano poi per tutte le istituzioni, cioè il consiglio comunale, la regione, la finanza, i carabinieri, i vari biglietti, per il direttore sportivo mi ricordo 40-50 biglietti per tutti gli ospiti, gli accrediti che chiedono tutte le società, ed era una cosa normale. Un fenomeno che c'è in tutte le società e che naturalmente per interesse si cerca di limitare, perché ci sono quelli che approfittano per entrare gratis. Io non penso che un malavitoso abbia, uno che va in tribuna centrale, abbia, gli mancano forse i soldi per vedere la partita gratis. Penso che qualcuno magari forse era una questione d'onore. Non lo so. Presidente Zamparini, allora tutto quel che si è detto, la mafia che voleva mettere le mani sul Palermo Calcio, gli interessi piuttosto della camorra sul calcio, non esiste nulla? Non c'entra nulla? Non lo so, può darsi che ci sia in altre realtà. A Palermo no, di sicuro. Assolutamente nulla. Io a Napoli ho fatto 3 centri commerciali in campagna dove c'era camorra, io non ho mai avuto nessuna pressione della camorra né nulla. Io faccio l'imprenditore, ho alcune iniziative che partiranno a Palermo, ma avevo già parlato col prefetto, col questore, perché so che hanno fatto giustamente una unità di forza per gli appalti, dove tutti gli appalti passano attraverso un controllo della prefettura, per i nominativi, per tutto. Cioè, in Sicilia si sa che se fai l'imprenditore devi avere determinate regole. Per cui la mia società è trasparente, possono andare a controllare tutte le entrate, le uscite, come hanno già fatto, ma noi non abbiamo ricevuto nessuna. Vede, l'unica mia giustificazione al comportamento ingenuo di Rino Foschi, il mio direttore sportivo, è che come lui a Verona trattava con gli ultras e li gestiva a un certo momento per non avere fastidi, magari lui a Palermo magari si sia fatto avvicinare da certi personaggi che pensavano fosse come quelli di Verona, non conoscendo la realtà del palermitana. Magari. Questo che gli ha debito lui, ma per la sua ingenuità, insomma. Ecco. Magari. Senta, un'altra cosa. No, nel senso che lei sostiene comunque le prove non ci sono, secondo lei? Assolutamente no. Senta Zamparini, un'altra cosa che si dice, questa sì davvero non dimostrata, anche se quello di cui stiamo parlando sono atti di inchieste, poi vedremo naturalmente, ma è il rapporto tra i tifosi, insomma le curve, i più estremisti e a volte la criminalità organizzata. Si è detto a proposito di Napoli e della Camorra, adesso con quello che potrebbe emergere in questa inchiesta che riguarda il Palermo Calcio, lei da questo punto di vista... Riguarda due personaggi estranei al Palermo Calcio. Però insomma le intercettazioni dicono che parlavano anche del Palermo. Sì, per forza, ma magari parlavano anche della sua radio, che ne sa. Parlavano di tutto. Loro parlavano del Palermo, erano procuratori dei giocatori del Palermo, per forza parlavano dei giocatori. Trapani ha procure solo di giocatori del Palermo. E sicuramente era un personaggio, come ce ne sono in Italia in altre società, non limpido sicuramente, perché sono giocatori che vanno a prendere i giovani che in un certo momento... E noi non avevamo allontanato... Insomma, però Zamparini, allora... Ma lei chi gli ha fatto fare di andare a Palermo alcuni anni fa? Mafia, che cosa ne so io della mafia. Mm. Sei cacciato in un vicolo cieco. Vabbè, ci fermiamo qua per ora Zamparini. Grazie per essere stato con noi. Naturalmente l'inchiesta è aperta, poi vedremo che cosa emergerà. Noi volevamo sapere da uno dei protagonisti il suo punto di vista. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Il mio punto di vista sia corretto. Come, scusi? Okay. Prego. Pronto. Prego. Evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato a Zamparini, ma non vedo cosa, perché volevamo proprio sapere da lui. Comunque il suo punto se vorrà di vista replicare, cercheremo di ricontattarlo per capire cosa non è piaciuto. Nel frattempo però c'è un altro tema e arriva dall'Europa. Ed è sempre quello che riguarda il latte contaminato cinese. Secondo quello che ha detto la Commissione europea quest'oggi, possiamo stare tranquilli, tutti i prodotti che arrivano in Europa sono comunque, non sarebbero dannosi per la salute. Su questo argomento è intervenuta oggi a Viva Voce, la nostra trasmissione, il sottosegretario alla salute Francesca Martini, che anche lei ha tranquillizzato. Sentiamo. Quello a cui noi assistiamo oggi è un vero e proprio attentato alla salute del pianeta. oggi parlare di latte cinese significa parlare di un vero e proprio latte killer. Il latte che c'è in Italia senza dubbio non ha alcuna contaminazione. Vi è però la preoccupazione rispetto a prodotti che possono contenere percentuali di latte o tracce di latte, come integratori alimentari, bevande e cereali in polvere, proteine isolate di soia e riso, aminoacidi vari, salse piccanti, salse di soia, biscotti dolci, alimenti dietetici, caramelle. Non soltanto oggi dall'Europa arriverà, come so già, arriverà un ulteriore divieto per altre tipologie di prodotti, ma anche e soprattutto un grande dibattito all'interno del nostro paese in Europa, perché come dico ho sentito parlare di aziende italiane, negozi italiani, anche piccoli bottegai italiani che vengono strozzati sotto gli occhi di tutti da persone che non applicando il sistema di diritti vigente nel nostro paese poi finiscono per fare davvero una concorrenza che è inaccettabile. E allora, parlando di Made in Italy a tavola, non poteva che essere il momento dei consigli del nostro gastronauta Davide Paolini per il fine settimana. Per un weekend in Trentino vi consiglio un posticino davvero molto molto carino che si chiama Vecchia Sorni. Vecchia Sorni è in frazione Sorni, a pochi chilometri da Lavis, e quindi siamo, come dicevo, in Trentino. Ma questo locale ha un balconcino, fuori, quasi una terrazza con pochissimi tavoli, e bisognerebbe azzeccare sicuramente una giornata che lo permette per mangiare fuori, dove si vede tutta la vallata dell'Adige. È una cucina molto tradizionale, basata su funghi, su ricotta fresca, e quindi canederli con la ricotta fresca, poi sui porcini che vengono serviti con patate, poi ancora c'è il guanciale, c'è il coniglio farcito, si trova anche il salmerino, insomma tutti piatti molto semplici, quasi direi di casa, ma il posto è talmente invitante, questi piatti sono così fatti bene che sicuramente vale un viaggio che si trova nei dintorni, anche perché, come dicevo, la localizzazione, è bello vedere mentre si sale tutti questi vigneti, quindi chi ama il vino e chi ama il Trentino sicuramente è un posto giusto, anche perché il prezzo sicuramente è invitante, quindi non si spendono cifre abnormi come succede sempre più spesso, il prezzo è sicuramente legato alla qualità e al servizio, ma certamente è un posto da visitare, lo ripeto, Vecchia Sorni a Sorni, Lavis in Trentino. 13:35 minuti, GR extra large, le notizie di oggi. All'Italia ancora incertezza. Prima arriva la firma all'accordo da parte dell'ANPAV, uno dei sindacati degli assistenti di volo. Mancano però le altre firme, nessun segnale positivo nemmeno dai piloti riuniti a Palazzo Chigi. Fumata nera anche negli Stati Uniti. Non passa per ora il piano Bush per il salvataggio delle istituzioni finanziarie. Manca l'accordo tra democratici e repubblicani. Intanto le autorità bancarie ordinano la chiusura di Washington Mutual. Le attività passano a JP Morgan. Due terroristi sul volo Colonia Amsterdam della KLM sono stati arrestati. Il lodo Alfano incostituzionale, il pubblico ministero del processo per le presunte irregolarità nella compravendita dei diritti TV da parte di Mediaset, che vede imputato anche Silvio Berlusconi, solleva la questione di costituzionalità per la legge sulle immunità alle alte cariche dello Stato. La rivolta pacifica di Castelvolturno, società civile in piazza per dire no alla camorra. Un italiano ad accendere le luci della Formula 1 ha realizzato l'impianto per il primo Gran Premio in notturna a Singapore. Una vignetta per introdurci agli argomenti economici, la cita è Europa, il settimanale, il quotidiano Europa, ma è una citazione da un settimanale svizzero. Ci sono due distinti banchieri, evidentemente, che escono dalla AIG, una delle istituzioni finanziarie americane fallita, che dicono alla stampa che li attende: non abbiamo scelta, o il socialismo o la morte. E negli Stati Uniti è saltato proprio nella notte il tavolo bipartisan sul piano di salvataggio Bush, sono stati interrotti i negoziati tra democratici e repubblicani per il piano da 700 miliardi di dollari. Ma sullo sfondo c'è anche la polemica per un intervento che costerebbe molto ai contribuenti e sulla cui necessità non c'è unanimità di vedute. Il commento di Luigi Zingales, professore alla Graduate School of Business di Chicago, scelto come migliore economista europeo nel 2020. Ci terrei a dire che purtroppo Ci troviamo di fronte allo stesso trucco che è stato usato per la guerra in Iraq. Cioè, la guerra in Iraq ci sono weapons of mass destruction, per cui se non interveniamo ci troviamo la bomba nucleare a New York. Chi ha il coraggio di dire no? Perché nessuno si sente responsabile di avere la bomba nucleare a New York, e quindi c'è stato l'intervento, ci sono stati quelli che erano stati stimati come, non mi ricordo se 40 o 50 miliardi, sono già diventati 600 e they keep going, e alla fine non si sa come se ne uscirà dall'Iraq. Paulson e Bernanke stanno mettendo il congresso di fronte alla stessa situazione, cioè c'è il financial meltdown, per cui o noi interveniamo massicciamente oppure tu, congressman, sei responsabile per il financial meltdown e per la next sort of a Great Depression. Secondo me non è così drammatica la situazione, cioè la situazione non è facile, però prima di tutto Lehman è fallita, il mondo sta ancora vivendo dopo il fallimento di Lehman, Nomura sta comprando Lehman Europa, pare che mantenga anche tutti i dipendenti e la maggior parte dei contratti. Life goes on. Secondo me l'amministrazione ha perso il senso delle proporzioni e, mi dispiace dirlo, però vuole proteggere anche un certo mondo finanziario. Cioè non è un caso che Paulson venga da Goldman e ha deciso di intervenire quando Goldman stava per cadere. E intanto gli ultimi degli interventi finanziari riguarda la Washington Mutual, che è stata chiusa, non era più in grado di proseguire le attività per mancanza di liquidi. Le sue attività per 1,9 miliardi di dollari saranno rilevate e acquistate tutte dalla JP Morgan. E fa notizia un altro tema negli Stati Uniti, la benedizione contro Satana di Sarah Palin, candidata repubblicana alla vicepresidenza, immortalata anche con un video su YouTube. Thank you Jesus. Let's all pray. Let's pray for Sarah. Hallelujah. Come on, raise up your hands and raise them, hold them and raise them up. Era il 16 ottobre 2005, in vista dei suoi impegni politici, Sarah Palin si fece benedire contro l'influenza di Satana, lo state ascoltando, da un pastore dell'Assembly of God dell'Alaska. Chiediamo, salvala da Satana, mostra il cammino, porta finanze alla sua campagna, usala per invertire la rotta di questa nazione, queste le parole, e naturalmente ha aperto il dibattito. E porta finanze, unisce un po' il sacro al profano, e devo dire che io ho visto il video, è piuttosto esilarante per noi europei che abbiamo magari un altro approccio a questo genere di questioni e alle campagne elettorali. Ma allora restiamo all'estero anche con la curiosità di giornata. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. E naturalmente, come sappiamo, la crisi americana, per la solita storia che quando l'America starnutisce l'Europa prende l'influenza, e la crisi americana ha avuto riflessi appunto anche negli altri paesi. Quindi Le Figaro, per esempio, ha metà della sua copertina su sfondo blu, il colore della Francia, Sarkozy che parla ieri, che ha fatto ieri un discorso che è stato anche ripreso da tutti i giornali e delle televisioni, dove ha promesso solennemente che in caso di fallimenti bancari francesi lo Stato interverrà immediatamente. Quindi anziché fare come in America, dove questo intervento abbiamo visto sta andando un po' a singhiozzo, Sarkozy dice: dovessero fallire, noi interveniamo immediatamente. Andiamo sul New York Times, Giulia. Sì, invece il New York Times, naturalmente possiamo immaginare, monopolizzato praticamente dalla crisi finanziaria, ma c'è spazio anche per altre notizie. A New York c'è una delle più importanti comunità ebraiche del paese, forse anche per questo tutte le questioni che riguardano Israele in ogni caso vengono sempre sviscerate. Oggi viene dato molto spazio a questa sfida che i coloni radicali, quelli con le posizioni, quelli più irremovibili nel loro rimanere là dove hanno, dove si sono stabiliti tanti anni fa, hanno fatto un attentato contro Zev Sternel, che è un professore universitario, alcuni suoi libri sono stati pubblicati anche in Italia, da sempre critico contro questo estremismo degli insediamenti ebraici, ma secondo il New York Times reazioni di questo tipo indicano anche, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto nel conflitto medio orientale si stiano radicalizzando le posizioni, anche quelle dei coloni appunto, che ricorrono addirittura alla tanta odiata violenza degli attentati. Grazie Giulia Crivelli per oggi, ci fermiamo qua. Con un balzo andiamo a Milano, dove si presenta oggi il progetto per la realizzazione del memoriale della Shoah. Laura Bettini. Buongiorno a tutti. Sì, è stato presentato il progetto per il memoriale della Shoah, un memoriale che verrà realizzato in circa 2 anni e sorgerà all'interno della stazione centrale di Milano, là da dove furono fatti partire verso i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau i treni carichi di centinaia di ebrei italiani che furono appunto deportati nel periodo 1943-45. Questi treni partivano dai binari sotterranei della stazione, dal famigerato binario 21, insieme ai treni merci, e in quest'area, proprio in quest'area, sorgerà il memoriale per la Shoah. Questo è il progetto, così come ce l'ha illustrato Guido Morpurgo, che è appunto il progettista del memoriale. Si articola in 2 momenti fondamentali: il memoriale della Shoah e il laboratorio della memoria. Quindi questi sono i 2 caratteri. Da una parte i luoghi che furono teatro di queste vicende, che vengono, come dire, attrezzati con una serie di allestimenti fatti su misura, e dall'altra invece appunto questi spazi per attività come dire permanenti, che potranno anche funzionare indipendentemente dal memoriale. Quindi c'è anche la possibilità di avere accessi differenziati, con orari differenziati, con anche come dire utilizzi differenziati. Quindi, come abbiamo sentito, non si tratta di un museo, bensì di un luogo vivibile per tutti coloro che hanno interesse ad approfondire gli argomenti di quegli anni, ma anche per capire quello che ci aspetta, o comunque per tutelarci nei confronti del futuro. Stamattina alla stazione di Milano sono arrivati il presidente della Regione Lombardia Formigoni, il presidente della Fondazione Memoriale per la Shoah, che è Ferruccio De Bortoli, l'avete ospitato ieri. C'era anche l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mario Moretti, e c'era anche uno dei sopravvissuti di quelle deportazioni. C'era Liliana Segre, aveva 13 anni quando fu portata ad Auschwitz con uno di quei treni, e questo memoriale, ha detto, deve servire anche come sprone appunto per il futuro, per non essere più indifferenti come lo furono i milanesi in quegli anni. Forse mai più passeranno decine di camion per la città di Milano che portavano nel silenzio della città silenziosa centinaia di cittadini alla stazione centrale per essere deportati, per essere portati verso il nulla, per essere portati lontano da qui senza nessuno che si voltasse a dire, salvo i detenuti di San Vittore, indimenticabili amici, vi vogliamo bene, non avete fatto niente di male, siete i nostri fratelli. Se no si ripeterà, come si ripete già ogni giorno, basta che ci voltiamo un attimo senza indifferenza. Grazie dunque a Laura Bettini, e da Milano ci spostiamo a Parigi, dove apre proprio oggi e dura fino al 5 gennaio la più grande rassegna mai realizzata su Andrea Mantegna. Quasi 200 capolavori per la mostra della stagione. Trattandosi di Mantegna e della presenza nelle collezioni francesi del maggior numero di suoi capolavori al di fuori dell'Italia, il Museo del Louvre ha fatto le cose in grande. Una retrospettiva monografica per ripercorrere in maniera cronologica e poetica l'opera di questo genio del Rinascimento italiano. In mostra, prestiti eccezionali, primo fra tutti i portatori di vasi, quarta tela dei Trionfi di Cesare, che per concessione della regina Elisabetta d'Inghilterra abbandona per la prima volta il palazzo di Hampton Court. Finalmente vicino i 2 San Sebastiano, quello del Louvre senza vetro e quello viennese. Ma sentiamo il curatore della mostra, Giovanni Agosti. La sfida di costruire una mostra secondo un ordine cronologico non mi pare una sfida in qualche modo accademica, ma una sfida umana. Mantegna non pone problemi di attribuzione se non in casi rarissimi, mentre pone problemi grossissimi di cronologia, perché ci sono opere che saltano a seconda degli studiosi che le hanno prese in considerazione anche di 20-30 anni. Da Parigi, Museo del Louvre, Stefano Biolchini, Il Sole 24 Ore. E la galleria fotografica la trovate sul sito del Sole 24 Ore. 13:49, le notizie extra large. All'Italia ancora incertezza, arriva l'ok degli assistenti di volo dell'ANPAV, mancano le altre firme e nemmeno quella dei piloti, si tratta ancora. Il lodo Alfano incostituzionale, il PM del processo Mediaset che vede imputato anche Silvio Berlusconi, solleva la questione di costituzionalità. Due terroristi sul volo Colonia Amsterdam della KLM sono stati arrestati. Scuola, le migliori a Pordenone e Salerno, le peggiori a Lamezia Terme. Il rapporto di cittadinanza attiva dà i voti agli edifici scolastici. Partiamo proprio da qua. Da 10 anni i bambini delle elementari San Francesco, gli studenti dell'Istituto Tecnico Lucifero di Crotone, ma anche quelli delle elementari di Cutro, giocavano e passeggiavano su scorie fatte di zinco, piombo, arsenico e mercurio. Sono infatti tra i 18 siti sequestrati dalla Procura di Crotone perché costruiti con rifiuti tossici. E proprio oggi Cittadinanza Attiva pubblica il suo rapporto su sicurezza ed edilizia scolastica. 132 le scuole monitorate in 12 regioni, nessuna ottiene il massimo dei voti, 103.000 nel 2007 invece gli incidenti tra le mura scolastiche. Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva al microfono di Maria Piera Ceci. Pensiamo appunto che le aule presentano sia crolli di intonaco che segni di fatiscenza, di umidità e così via, ormai quasi in un caso su quattro, e con pavimenti sconnessi, finestre rotte, ma anche che abbiamo pochi banchi e comunque danneggiati, e poi abbiamo armadi e librerie, se pensiamo che buona parte delle scuole monitorate sono di scuole materne o primarie, non abbiamo armadi e librerie ancorati alle pareti, e questo anche fa il paio con il numero sempre crescente di incidenti che anche quest'anno non solo noi ma soprattutto l'INAIL registra. Per non parlare, si parla appunto di 12.900 incidenti al personale e 90.500 esatto. Circa gli studenti, sono numeri considerevoli. Sono numeri consistenti e poi sono solo quelli denunciati. Altra nota dolente è quella della certificazione. Dico nota dolente perché ormai tutti gli anni, no? Facciamo queste chiacchierate, raccontiamo ai nostri ascoltatori. E purtroppo nulla cambia e nulla migliora, anzi. Nulla migliora. E poi ripeto, quello che a noi dispiace e preoccupa, e non sappiamo veramente più ormai come farlo capire, è che un terzo delle scuole italiane si trova in zone a rischio sismico. Sapere o no che quella scuola è in grado di sostenere una scossa, quindi l'agibilità statica sta a indicare questo, è una fonte di preoccupazione immensa, credo, per tutti. Eppure, San Giuliano insegna purtroppo, esatto, in questo senso. Esattamente, tra pochi giorni ricorrerà appunto l'anniversario. L'elenco completo di scuole e voti sulla sicurezza li trovate sul nostro sito radio24.it e torneremo a parlarne domani alle 12.45 con obbligo di frequenza. Salva la scuola è lo slogan scelto dal Partito Democratico per una 3 giorni di manifestazioni sul tema proprio della scuola contro le iniziative del ministro della scuola Gelmini. Non ultima quella venuta fuori nelle ultime ore che da quest'anno, secondo questa notizia, basterà un 5 in pagella e si verrà bocciati anche alle elementari e alle medie, dove come sapete da quest'anno sono stati reintrodotti i voti. Ma nel mirino dell'opposizione c'è soprattutto il maestro unico alle elementari, Maria Pia Gravaglia, ministro ombra della scuola del PD. Non siamo d'accordo che venga toccata la scuola primaria, cioè le elementari, perché è la scuola che negli indici internazionali è una che occupa le più alte posizioni della classifica. Perciò, perché toccare le elementari? Per un motivo puramente contabile, perché si può essere sicuri con il decreto che è stato approvato il 1° settembre, che l'anno prossimo il numero dei maestri è contato. Perciò il saldo contabile di Tremonti con un maestro unico è facilmente realizzabile. Il maestro unico non risponde a nulla nel dibattito pedagogico, metodologico. Avessimo fatto un dibattito, la Moratti aveva per la sua riforma affrontato tutte le piazze, ma anche 4 anni di confronto con i sindacati, le associazioni di categorie, le famiglie, le associazioni genitori. Qui noi abbiamo trovato decreti di carattere finanziario approvati con la fiducia, quindi non possiamo essere d'accordo per il fatto che non abbiamo discusso nulla. A Piacenza fino a domenica il Festival del Diritto organizzato dagli editori La Terza con la collaborazione del gruppo Sole 24 Ore. E noi oggi concludiamo il nostro viaggio su come il diritto influenza la vita quotidiana con il diritto alla giustizia. Le carceri sono stracolme, l'allarme è quotidiano e ci arriva da quasi tutti gli istituti penitenziari italiani. In più, come dice la nostra Costituzione, la pena può anche essere l'occasione di riabilitazione e reinserimento nella società. Insomma, una vita fuori dal carcere per alcuni detenuti, magari a fine pena, può rispondere a questo diritto di riabilitazione e affrontare il problema del sovraffollamento degli istituti. Esistono forme alternative al carcere e soprattutto sono efficaci. Luciano Eusebi, docente di diritto penale all'Università Cattolica. La Costituzione vede nel recupero del condannato una vera e propria strategia. Una persona recuperata rafforza il consenso sociale alla legge. Noi in Italia abbiamo pressoché esclusivamente la pena detentiva. Dal punto di vista del recupero è comunque fondamentale assicurare un lavoro vero al detenuto. Oggi nella maggior parte dei casi si tratta in carcere di meri lavori di comunità. Un detenuto che può lavorare e che può usufruire di un percorso di reinserimento sociale a tassi di recidiva enormemente inferiori a un detenuto che sconta una pena in maniera totalmente passiva nell'interesse della sua durata. L'ultima proposta per svuotare le carceri arriva direttamente dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, che propone di dotare i detenuti rinchiusi per reati non gravi di un braccialetto elettronico che ne consenta l'immediata individuazione e poi mandarli a casa. Quali sono i pro e i contro di un'iniziativa simile? Qualunque sia la tipologia di pena che viene applicata, l'aiuto al reinserimento sociale, l'orientamento alla riparazione è un grande investimento preventivo. Ipotesi come quella del braccialetto elettronico possono avere una loro plausibilità, ma hanno il limite di una visione di puro controllo in assenza di un investimento autentico per il recupero. Andrea Silla, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di Formula 1. Tra pochi minuti cominciano le sessioni di prove libere per il Gran Premio di Singapore, il primo tra l'altro in notturna che viene effettuato nella storia dell'automobilismo. Ad ideare l'impianto di illuminazione un italiano, Valerio Maioli, l'ha sentito Dario Ricci. Verso novembre-dicembre del 2006 mi telefonò Bernie Ecclestone chiedendomi se secondo me si poteva correre di notte la Formula 1. Io rimasi un attimo perplesso e poi gli dissi va bene, fammici pensare un attimo, fammici fare qualche conto. A marzo del 2007 andai a trovarlo a Londra nel suo ufficio e poi venni a Singapore, feci una verifica di quello che era la bozza del tracciato per vedere se la cosa si poteva fare. Dopodiché ho incontrato i vari funzionari governativi. Una bella sfida dopo che quest'anno abbiamo visto anche l'esordio della MotoGP, no? Nelle sue gare in notturna. Non ha nulla a che fare con l'impianto di Doha, che è completamente sbagliato a mio avviso. Quindi proprio ci tengo, vedrete la differenza. Ah, insomma, quindi c'è anche un po' di polemica con le due ruote da questo punto di vista. No, assolutamente mai. Ma illuminare con torrifaro è quanto di più sbagliato ci possa essere. Illuminare le gare motoristiche con dei proiettori lontani dalla pista è sbagliato per un semplice principio fisico, che l'angolo del raggio riflesso è uguale all'angolo del raggio incidente, per cui se lei vuole evitare l'abbagliamento ai piloti prima e agli spettatori eccetera, lei bisogna che illumini in maniera quasi pressoché verticale. Quanto costa un impianto del genere? Costa una ventina di milioni di euro, considerando appunto tutta la quantità di materiale. Lei pensi che ci sono 1800 proiettori da 2000 watt, ci sono più di 160 km di cavi di potenza, una cinquantina di chilometri di fibra ottica, 246 piloni d'acciaio da 12 metri. Ancora incertezza sul futuro di Alitalia, spaccati i sindacati degli assistenti di volo, incerta la posizione dei piloti. A Palazzo Chigi Vincenzo Miglietta, novità? No, ancora nessuna novità sul fronte piloti, si tratta ancora, ricordiamo che alle 13 è scaduto il termine fissato in precedenza dal governo per chiudere l'accordo, evidentemente le sigle autonome hanno chiesto più tempo che è stato concesso. In mattinata è arrivato il sì dell'ANPAV, sigla degli assistenti di volo, hanno chiesto invece maggiori integrazioni Avia ed SDL. All'Italia ancora incertezza, arriva l'ok degli assistenti di volo dell'ANPAV, mancano però le firme dei piloti, si tratta ancora. La rivolta pacifica di Castelvolturno, società civile in piazza per dire no alla camorra.